Spesso ci troviamo imbarazzati nel dover decidere tra due cose. È meglio andare al mare in questa località o in un'altra? È meglio spendere i soldi da questa parte o in quest'altra? È meglio riposarsi o terminare un certo lavoro? Forse non ce ne rendiamo conto, ma ogni giorno siamo di fronte a delle scelte non tanto giuste o sbagliate, ma tra una giusta e una migliore. È vero che il meglio spesso è nemico del bene, perché a volte non ci si accontenta di quello che si ha o che si è ottenuto. E alla fine si arriva a perdere tutto, ma non possiamo ignorare che il meglio esiste, ed è importante. Se si corre, è sempre meglio fermarsi quando è il momento, prima di arrivare ad essere estenuati. Se si fa spesa, è sempre meglio tenere in considerazione le possibilità economiche anziché comprare, senza riflettere. Se si mangia, è sempre meglio non lasciarsi prendere dalla gola prima di stare male. Così, proprio perché la parola meglio ha una saggezza invidiabile, ho notato che questo termine è usato di frequente nella Bibbia, e dato che di saggezza c'è NMCE bisogno, ho pensato di prendere in esame alcune frasi che la menzionano. Da ricordare che il termine meglio non è posto in contrapposizione all'ingiusto come se la cosa precedente fosse da scartare, ma è usato per paragonare una cosa giusta però inferiore a quest'ultima. La prima cosa migliore che prendiamo in esame si trova nel Salmo 118. È meglio rifugiarsi nell'Eterno che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nell'Eterno che confidare nei principi. Versetto 8 a 9. Fare assegnamento sul prossimo è giusto e normale. Per nessuno di noi è possibile vivere senza l'aiuto del prossimo. Anche Gesù, il Figlio di Dio, quando si trovò in difficoltà, chiese ai suoi discepoli di pregare. Noi tutti abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Eppure occorre fare attenzione perché l'uomo non sostituisca Dio. Ecco, perché la parola di Dio ci dice che è meglio confidare in Dio o rifugiarsi in Lui che confidare e rifugiarsi nell'uomo. Cosa significa confidare in Dio o rifugiarsi in Lui? Significa che nel nostro bisogno aspettiamo l'intervento di Dio con delle circostanze a noi favorevoli piuttosto che aspettare l'intervento dell'uomo. Una giovane credente occupava un posto nella graduatoria per ottenere un lavoro, ma sapeva che vi erano delle persone raccomandate. L'unica soluzione era confidare in Dio e pregare. Successe che le persone raccomandate non furono proprio in grado di superare l'esame. E la ragazza vide l'intervento di Dio nella sua vita. È dunque giusto confidare negli uomini, ma molto meglio confidare in Dio. La corsa al benessere è uno degli sport più ricercati dalla società. Si vuole stare bene, si vuole vivere bene, si vuole possedere il più possibile. Nulla di sbagliato nel desiderio di migliorare economicamente e vivere bene. Ma anche in questo obiettivo innato nell'uomo Dio ha da dire la sua. È meglio poco con giustizia che grandi rendite senza equità. Proverbi 16.8. Spesso si è indecisi se appropriarsi di beni a costo di qualche compromesso poco pulito o rimanere con il poco che si ha. Ma la scrittura dice che è meglio avere poco come risultato di una vita onesta che possedere molto a costo di fare tacere la coscienza. Quello tra giustizia e ricchezze è un dilemma che si presenta ogni giorno, soprattutto quando si tratta di tasse e di combinare affari. Avere grandi entrate non è sbagliato, ma è molto meglio accontentarsi di poco con giustizia e con serenità di coscienza, per non aver fatto del male a nessuno e per aver messo in pratica la giustizia di Dio. Fa coro a questa verità un altro proverbio. È meglio un povero che cammina nella sua integrità di uno che è perverso di labbra ed è stolto. Proverbi 19.1. Anche in questo caso la parola di Dio loda l'equità o il minimo necessario per vivere piuttosto che le falsità proferite al fine di acquistare ricchezze. Questo proverbio prende di petto tutti i commercianti nella loro funzione di vendere. Una merce si può vendere per il suo valore, si può lodare per la qualità, ma si può anche presentare sotto false spoglie e imbrogliare il prossimo pur di avere del denaro. Conosco dei credenti che hanno dei negozi e mi hanno confidato che avrebbero potuto vendere della merce solo parlando in un certo modo. pur sapendo di imbrogliare l'acquirente, ma hanno preferito vendere di meno e essere leali e non perversi di ladda. Davanti a Dio ha valore un povero che cammina nella sua integrità, e se prendiamo sul serio il parere di Dio, chi non possiede beni o agi per amor di giustizia deve ogni giorno essere riconoscente a Dio per questo. Vi sono persone che vorrebbero servire Dio, vorrebbero fare cose grandi per Lui, e non sanno che possono servire Dio ogni giorno, possono onorarlo soprattutto con una vita vissuta nella semplicità e nella correttezza. L'Apostolo Paolo ha ordinato ai credenti di pregare per le autorità per condurre una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e decoro. 1 Timoteo 2.2. Una vita decorosa e onesta glorifica Dio quanto quella di chi compie opere potenti. Il matrimonio tra un uomo e una donna è uno dei doni inestimabili della vita, e ne è dimostrazione il fatto che quasi tutti cercano di sposarsi. È vero che vi sono anche i divorzi e la convivenza, ma sono parentesi che manifestano malattie del normale e sano corso della vita. Anche in questo settore, la parola di Dio ha qualcosa da dire in merito al meglio. È meglio abitare sull'angolo di un tetto che in una casa condivisa con una moglie litigiosa. Proverbi 25.24. È meglio abitare in un deserto che con una donna litigiosa e irritante. Proverbi 21.19. Se il matrimonio è un dono di Dio, se avere una moglie saggia è un dono ancora più grande, vivere con una donna litigiosa, o come traducono altre versioni, rissosa o dedita alle liti, allora è meglio abitare da soli, solitudine che alla quale la parola di Dio allude con espressioni tipiche della cultura del suo tempo, cioè abitare su un angolo di un tetto meno, perché i tetti in Palestina sono piatti meno, oppure in un deserto. Questi proverbi, o queste verità, non inducono i mariti a separarsi dalla moglie, ma mettono in evidenza quanto sia difficile convivere con una donna che non segue suo marito, o una moglie che del continuo contesta il capo famiglia. Il matrimonio è prima di tutto una relazione e condivisione di ogni cosa, è trovare l'equilibrio tra due esigenze, e una moglie indisponente rende il matrimonio una sofferenza tale da preferire la solitudine. Altra cosa da preferire ad un'altra è in merito al voto. È meglio non fare voti che farli e poi non adempierli. Ecclesiaste 5.5. Il voto religioso è quella promessa particolare mediante la quale ci si impegna a compiere una determinata azione. Tra i tanti voti, il più importante è certamente l'impegno di consacrare la propria vita a Cristo Gesù. A volte si assistono a veri e propri atti pubblici di consacrazione a Cristo, ma in seguito, per un motivo o un altro, capita che chi ha promesso ritorni a gestire la propria vita come prima. Se è un errore non consacrare la propria vita a Cristo, secondo la parola di Dio è un errore ancora più grande fare una professione di fede e di consacrazione e poi non mantenere ciò che si è promesso. Se prendiamo sul serio la Scrittura, tutti coloro che professano di essere cristiani sono chiamati a valutare seriamente la loro chiamata perché era meglio per loro non aver mai fatta una professione di fede. A Giuda che lo aveva tradito, Gesù disse che sarebbe stato meglio per lui di non essere mai nato, Matteo 26.24, e al credente Cristo dice che è meglio non fare promesse piuttosto che non mantenerle. Un tema come il nostro non poteva essere preso in considerazione da Salomone, la quale saggezza supera quella di ogni altro abitante della terra, fuorché di Gesù Cristo. Scrivendo il libro dell'Ecclesiaste, Salomone considera la vita nella sua cruda realtà, spesso paragonando una cosa buona a una migliore. Ecco una di queste riflessioni. Un buon nome è preferibile a un olio profumato, e il giorno della morte meglio del giorno della nascita. È meglio andare in una casa dove ci è lutto che andare in una casa dove si fa festa, perché quella è la fine di ogni uomo. E chi vive, vi porrà mente. La tristezza è preferibile al riso, perché davanti a un volto triste, il cuore diventa migliore. Il cuore del saggio è in una casa di lutto, ma il cuore degli stolti è in una casa di allegria. È meglio per qualcuno ascoltare la riprensione del saggio che ascoltare il canto degli stolti. Perché, comma, è il crepitio dei pruni sotto una pentola. Così è il riso dello stolto. Anche questo è vanità. Ecclesiaste 7.16. Le riflessioni di Salomone vanno contro la corrente della mentalità comune. E, grazie a Dio, queste riflessioni appartengono a lui, che è stato l'uomo più sapiente di questa terra. Se io dicessi che è meglio essere attratti dalla sofferenza che dalla gioia, sarei ritenuto almeno un poco strano se non idiota. Ma poiché lo dice Dio tramite Salomone, allora occorre fare attenzione. Se dicessi che il giorno della morte è migliore del giorno della nascita, magari, trovandomi davanti ad un giovane morto prematuramente meno, non credo che riceverei un coro di applausi. Una cosa è certa, una nascita, la gioia, il divertimento sono doni di Dio, ma visti nell'ottica eterna queste cose hanno un valore relativo, quindi sono meglio o preferibili il dolore, la tristezza e la morte. È preferibile il dolore perché nella sofferenza in genere tutti gli uomini diventano migliori o perlomeno diventano umani. Ho conosciuto molte persone che esprimevano giudizi severi e inumani, ma dopo essere stati provati avevano atteggiamenti più comprensivi. E per la morte cosa dire? Prendo ad esempio l'Apostolo Paolo. Per me infatti vivere è Cristo e morire guadagno. Filippesi 1.21. Se Paolo dichiara che la morte era un guadagno, quindi meglio della vita, o era un pazzo o era veramente un cristiano. Paolo era saggio e cristiano perché sapeva che morire significava andare alla presenza di Dio e gioire per l'eternità. E lo sapeva non solo intellettualmente come alcuni, ma ne aveva una coscienza concreta. Prendiamo in esame un proverbio che potrebbe piacere ai romantici. Meglio un piatto di verdura, dove ci è amore, che un bue ingrassato dove ci è odio. Proverbi 15.17. Non ci vuole molto a comprendere che dove ci è l'amore, e cioè la concordia, l'armonia, l'affetto, la comprensione, è molto meglio che possedere dei beni. Nella pratica però pochi ci credono. In una discussione tra coniugi, non si preferisce più spesso aver ragione, o che l'altro coniuge riconosca i suoi errori, o che una cosa vada in porto come si vuole, piuttosto che ritener meglio lasciar correre e cedere riguardo a certe posizioni. Nel dividere un'eredità, preferiamo mantenere dei rapporti inclinati per sempre, meno, e a volte anche per generazioni meno, per ereditare il giusto, oppure ereditare meno e forse anche ingiustamente, pur di mantenere dei rapporti amichevoli e duraturi, si fa molto presto ad affermare che si crede in Cristo e nella parola di Dio, ma quando ci sono in ballo degli interessi morali o finanziari, si vede la schiettezza della nostra fede e del nostro amore. Da notare che un bue ingrassato non è una cosa cattiva, non è da respingere, perché a tutti piace l'abbondanza e mangiar saporito e bene, ma se si ritiene meglio l'amore, allora il benessere e il piacere passano in secondo piano. Ancora una volta la ricerca di ciò che riteniamo meglio rivela ciò che abbiamo veramente nel cuore. Vi è un altro proverbio nella Bibbia che fa ridere molte persone. Quanto è meglio acquistare sapienza che oro, e acquistare intendimento è preferibile all'argento. Proverbi 16.16. L'oro e l'argento non sono solo ciò che l'uomo ritiene migliore, ma rappresentano anche tutto ciò che per noi ha più valore. Per alcuni la cosa più importante è indossare capi firmati, per altri avere una collezione rara, per altri ancora costruirsi una casa. Eppure dopo aver preso seriamente in considerazione quali siano le cose più importanti, la parola di Dio afferma che l'intelligenza e la conoscenza sono molto meglio. In merito alla conoscenza e sapienza, occorre fare due precisazioni. Devo confessare che per me non è mai stato un problema scegliere la conoscenza all'oro o al benessere, perché fin da piccolo ho sempre desiderato ardentemente conoscere Dio e le cose della vita. Però, per quelli come me, vi è il pericolo di fermarsi solo alla semplice conoscenza senza metterla in pratica. L'altro aspetto è riguardante le persone che non hanno un spiccato desiderio di istruzione, per le quali occorre uno sforzo nell'impegnarsi a conoscere la parola di Dio e il suo autore, cioè Cristo Gesù. Per molti dedicare del tempo a acquistare sapienza e intendimento non ha molto valore, perché come si dice, quando si va a fare la spesa ti chiedono del denaro e non della sapienza. In parte è vero, ma la sapienza alla quale si riferisce la scrittura non è pura filosofia. Pochi sono a conoscenza che per gli ebrei istruzione e lavori pratici andavano assieme. E significativa l'affermazione di quel rabbino, insegnante delle scritture, che diceva: colui che non insegna a suo figlio un mestiere utile lo fa crescere perché diventi un ladro. In effetti Pietro faceva il pescatore quando fu scelto da Gesù, un mestiere questo che comporta una vita dura, svolta talora in condizioni difficili. Per ogni ebreo il lavoro era sacrosanto, fondamentale. La ragione sembra ovvia. Chi lavora è una persona pratica e vive in una dimensione umana, essendo a contatto con la quotidianità delle cose. Chi lavora generalmente è più comprensivo di chi invece è avvezzo unicamente allo studio e rischia di diventare un idealista, ignaro dei problemi concreti. Non dimentichiamo che l'apostolo Paolo era costruttore di tende e Gesù un falegname. E bene dunque, cercare nella vita il benessere, ma è molto meglio dedicare del tempo e del denaro all'acquisto della sapienza, perché come sta scritto, la sapienza ha il vantaggio di riuscire sempre. Ecclesiaste 10.10. Le situazioni della vita non sono sempre facili. Spesso un cristiano fedele soffre a causa della sua fede. E questo non solo nella lontana Africa o in Oriente, ma anche nel luogo nel quale si trova. Quando accettai sul serio il messaggio del Vangelo, mi dedicai subito a parlare di Cristo, preferii la lettura della parola di Dio anziché il ballo o il cinema. Il mio parlare non era più come quello dei miei compagni. Di me si disse di tutto e di più, che fossi coinvolto in una setta o che ero andato giù di testa. E, molto strano che in una società definita cristiana, quando uno vive da cristiano sia ritenuto non normale, ma questo significa che la società non sa chi è un cristiano e non vive da cristiana. Ma questa esperienza non è unica né isolata, perché da sempre i cristiani sono stati calunniati, e lo dimostra anche ciò che l'apostolo Pietro scrive nella sua prima lettera: ma anche se doveste soffrire per la giustizia, beati voi, or non abbiate di loro alcun timore e non vi turbate, anzi santificate il Signore Dio nei vostri cuori, e siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domandi spiegazione della speranza che è in voi, con mansuetudine e timore, avendo una buona coscienza, affinché quando vi accusano di essere dei malfattori vengano svergognati coloro che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. È meglio, infatti, se tale è la volontà di Dio, soffrire facendo il bene piuttosto che facendo il male. 1 Pietro 3.1.4.17. La sofferenza fa parte della nostra esistenza umana, e proprio perché non è possibile non soffrire, Pietro fa un paragone molto saggio. Visto che ci sono persone che soffrono perché fanno del male, è meglio soffrire facendo del bene piuttosto che facendo del male. Cosa comporta questo ragionamento? Significa che il credente ha un cammino retto, osserva i comandamenti di Cristo, anche se viene accusato ingiustamente. Non è possibile nascondere il fatto che in una società cattolica romana non pregare la Madonna, non recitare il rosario, rifiutare il sacerdozio cattolico romano, non andare in processione, condannare la dottrina del purgatorio della confessione auricolare, costituisca motivo di severo giudizio da parte dei religiosi e anche degli increduli. Cosa fare? I veri cristiani continuano ad osservare i comandamenti di Cristo, perché è meglio soffrire facendo del bene che facendo del male, e questo anche perché chi soffre causa il regno di Dio sarà maggiormente premiato. Anche Gesù ha fatto dei paragoni e ha ritenuto meglio certe cose. Ora, se il tuo occhio destro ti è causa di peccato, cavalo e gettalo via da te, perché è meglio per te che un tuo membro perisca, piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è causa di peccato, mozzala e gettala via da te, perché è meglio per te che un tuo membro perisca, piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella Geenna. Matteo 5.29-30. Non mi sono dubbi sul fatto che abbiamo un corpo stupendo. È stupendo perché è armonioso. È stupendo perché ogni singolo membro ci serve ed è utile. Così, dopo aver preso in considerazione il valore del corpo, Gesù fa un paragone. Quando hai preso in esame quanto sia utile e buono il tuo corpo, sappi che è molto meglio perdere uno dei tuoi membri che essere gettato nella Geenna, e cioè nel fuoco eterno. Sono parole che fanno riflettere perché Gesù non ha fatto un confronto con delle cose passeggere o terrene, come per esempio quando disse «è meglio sposarsi che ardere» 1 Corinzi 7.9 o «è meglio vedere con gli occhi che vagare con il desiderio» Ecclesiaste 6.9, ma ha parlato di eterna condanna e di eterna felicità. Per comprendere la gravità del parlare di Gesù occorre per solo mezz'ora far finta di non avere una mano e vedere in quale disagio ci troviamo. Se dopo aver provato a svolgere le faccende della vita con una sola mano vediamo quanto sia disagevole, se comprendiamo quale sia lo smarrimento nel trovarsi senza un membro, questa privazione, a paragone con la perdizione eterna, non è nulla. E meglio vivere senza un membro che andare alla perdizione eterna. E con questa riflessione possiamo terminare le nostre indagini in merito alla parola meglio. Nella parola di Dio ci sono ancora tanti altri paragoni che mettono in luce che ci sono tante cose buone, rilevandone però anche delle migliori. Tutti questi esempi servono, ma alla fine non hanno nessuna utilità se prima non si è risolto il problema della propria anima. È molto più importante cercare il vero meglio piuttosto che il meglio terreno, il quale dovrà essere lasciato nel giorno della morte. Gesù disse di cercare prima il regno e la sua giustizia, e poi le cose terrene, il che vuol dire che è molto meglio dedicare tempo, energie e fatica per ricevere il perdono dei propri peccati ed entrare così nel regno di Dio, piuttosto che affaccendarsi in ciò che è buono, ma non è il meglio del meglio. Dicembre 2006. Ellero.